Si tratta di capire quanto ognuno di noi voglia davvero conoscere la verità. Forse ci sono dei momenti in cui cerchiamo una soluzione e allora sapere la verità può essere d'aiuto. Altre in cui la verità non la vogliamo conoscere e crediamo a una realtà che è la nostra. Non so se mi spiego, dottore. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, è venerdì 28 aprile, 29 aprile 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Io non sto dicendo di dirmi che cosa avete detto al vostro analista nell'ultima seduta. No, non lo chiederei mai nemmeno ad un amico in privato, figuriamoci se lo vengo a chiedere a voi, che non vi conosco e siamo pure in diretta. Quello che vorrei fare per oggi è sentire persone che sono in questo momento, in questo periodo della loro vita, o sono stati in passato, in una qualsiasi forma di terapia psicanalitica. Che si trattasse o si tratti di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, di un counselor. Mi piacerebbe sapere che tipo è la persona a cui raccontate le vostre cose più intime. Che rapporto avete con lui? Se è uno che parla o che sta zitto? Se vi dà del tu o vi dà del lei? Se dà consigli o fa solo domande? Se vi fa la fattura oppure no? Cose tipo dov'è il suo studio? Come è arredato? Quanto vi tiene lì? 50 o 60 minuti? E soprattutto quanto lo pagate? Vi ricordate com'è stata la prima volta, il vostro primo incontro? Oppure com'è stata l'ultima seduta? Poi di solito nel rapporto con uno psicanalista, con un analista, uno psichiatra, c'è sempre qualcosa di particolare che rimane impresso. Tipo una frase che lui vi ha detto, o lei vi ha detto, una frase che non dimenticherete mai. Una sua espressione del volto, un piccolo dettaglio di una seduta che vi ha colpito e che magari l'ha reso più umano. Ho un amico che va da una psicologa che lo accoglie in casa, seduta su una poltrona in pelle, accarezzando il gatto che tiene sulle ginocchia. Lui dice che non riesce ad immaginarla se non lì, su quella poltrona, insieme a quel gatto. Dice che lei parla pochissimo, ma quando parla dice sempre cose brevi e sensate. Cose che poi a lui girano in testa per giorni e giorni. Lo ripeto, non vi chiederei mai di raccontarmi quello che dite al vostro analista. Solo qualche dettaglio, su di lui, sui vostri incontri, su di voi quando siete con lui. Sull'ultima cosa che vi ha detto o sulla prima sensazione che avete avuto quando l'avete visto. Ecco, se volete raccontarmi chi è il vostro psicoterapeuta, oggi io sono qui. 80024 0024 349 238 6666. Avete capito cosa intendo, vero? Ok, quello era un sì. Come esattamente come ha fatto Mario. Il mio analista è uno strumento né più né meno simile a un abbonamento in palestra. Io lo pago e lo uso allo stesso identico modo di come pago e uso l'abbonamento in palestra. E poi ancora, Dana scrive 8 gennaio 2002, giusto qualche anno fa. Sì, vabbè, quasi. Ah, è una battuta, giusto qualche anno fa. Scusatemi. Lo ricordo come fosse ieri, le sue ultime parole. Da oggi in poi devi essere la psichiatra di te stessa. Ancora non smetto di ringraziarlo. 80024 0024. Oggi si parla di psicoterapeuti per un motivo molto semplice. Che ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare in teoria. Ed è, sapete che ho un vicino di casa che fa l'analista. E niente, mi sono messo ad ascoltare proprio un pezzetto di una sua seduta. È una roba microscopica. Chiedo a tutti gli analisti, psicoterapeuti in ascolto di non prendersela e di non fare delle emozioni al loro ordine, perché è veramente una cosa molto ingenua e innocua. Ma se loro invece hanno voglia di raccontarmi chi sono e che cosa fanno con i loro pazienti, 80024 0024. Cristina: ci sono andata per un anno, poi ho smesso per vari motivi. La mia psicoterapeuta è una persona molto calma, magrissima, ma con un'energia sconvolgente. Solo con uno sguardo riusciva a capirmi e sicuramente fra un po' di tempo ci ritornerò. Nell'ultima seduta parlavamo delle vocine nel mio cervello che non mi bloccavano. Ma Cristina, se hai delle vocine nel cervello, però forse esatto, o dovresti tornarci. Martina: mi piacerebbe parlare ma non posso, perché poi lo saprebbe pure mio padre che ascolta insieme a me in auto. Questo forse non andava letto, perché adesso il papà di Martina lo sa. Debora: 2 anni fa circa ci siamo salutate senza rimpianti, dopo un lavoro andato a gonfie vele. Ci siamo ripromesse un caffè, ma io non riesco ad andare a prendere il caffè con la mia ex analista. Nel mio cuore le dico sempre grazie. 80024 0024. Se siete pazienti o se siete analisti, ma soprattutto se siete pazienti, qualche dettaglio sul vostro analista, perché a modo suo quella è una persona che segna la vostra vita e qualche traccia la lascia. 800240024 oppure 349-238-6666. Ieri non è il mio analista, è il mio vicino di casa, ma è successa questa cosa qua. Dunque, innanzitutto io non immaginavo che aiutando Ettore a scrivere un tema potesse scoppiare un casino così. Vi spiego. Ieri Ettore, che è il bambino figlio dei miei vicini di casa, quello che ho accudito qualche sera fa, è venuto a bussarmi alla porta dicendo che la maestra lo aveva chiamato nell'aula professori e gli aveva chiesto se la storia che lui aveva raccontato nel tema, quella di Pasqua, fosse vera oppure no. Quella dell'agnellino sgozzato, soprattutto quella della figlia di 9 anni degli amici, quella con cui lui era andato da solo, dietro al fienile. Mentre mi raccontava questa cosa, io sono stato come preso dal panico. Mi sono tornate alla mente immagini quasi dimenticate, immagini di interrogazioni, di note sul diario da far firmare ai genitori, compiti in classe e pagelle. Di quelle terribili sessioni di incontro tra professori e genitori di tutti gli allievi, quelle in cui vedevo mia madre uscire di casa e non sapevo mai come sarebbe tornata, se arrabbiata come una biscia oppure serena per il semplice fatto che la maestra oppure una serie di professori un po' annoiati le avevano detto che ma no, in fondo è un bravo ragazzo, sì, potrebbe fare molto di più ovviamente. Ettore però non sembrava per niente preoccupato, ha detto che lui le ha risposto a tono alla maestra. Io gli ho chiesto esattamente cosa intendesse. Lui mi ha detto che le ha fatto il discorso sulla realtà e sulla finzione. Ecco, allora gli ho chiesto di spiegarmi esattamente cosa intendeva. E lui, mentre si mangiava un pacchetto di fonzi che gli avevo appena regalato, lui ovviamente i fonzi a casa non li può mangiare, mi ha raccontato che la cosa importante del tema non era tanto quello che c'era scritto, ma come era scritto. Che non era mica la pagina di un diario privato, era una cosa che tutti gli allievi scrivevano perché fosse letta da una maestra, che in quanto maestra e preparata potesse valutare quell'esercizio. Non era mica un confessionale con il prete, che se non dice a lui la verità allora sì che è un casino. Mentre mi raccontava queste cose io lo osservavo attonito. E lui, leccandosi le dita dalle briciole dei fonzi, continuava a raccontarmi il suo dialogo con la maestra. Quando lei gli ha detto che però non era bello mentire su quello che si era fatto il giorno di Pasqua, lui le ha risposto che non aveva mentito, aveva raccontato una storia e che alcune parti erano vere e altre no. Ma quello che lei in quanto maestra avrebbe dovuto valutare era solo se c'erano degli errori di grammatica o di ortografia, tutto qui. Il resto era quello che lui aveva scritto riguardo ad una giornata trascorsa coi suoi genitori e degli amici. Addirittura le ha chiesto se lei pensava che tutte le storie di Tom Sawyer, quelle che raccontava Mark Twain, fossero vere vere, o se invece fossero solo interessanti perché erano belle. Nel frattempo aveva finito i suoi fonzi e mi ha detto che doveva tornare a casa a fare i compiti. Io l'ho salutato e gli ho detto di passare domenica, che ci saremmo visti l'Inter insieme. Lui mi ha risposto che era juventino e gli ho detto che non era un problema, che comunque poteva guarire. Gli ho aperto la porta, mentre controllavo che tornasse a casa sua, una ragazza scura, alta, lo ha incrociato sul ballatoio. È andata dritta e ha suonato alla porta del dottor Salvati. Io sono rientrato in casa, mi sono messo al computer e mentre preparavo la puntata di domani, ho sentito qualcuno che piangeva. Veniva dallo studio del dottor Salvati e la persona che piangeva era la ragazza di prima. Now I forget how to think. Crack my skull, rearrange me, and lover, put me in your beautiful bed, and cover me, lover, put me in your beautiful bed. Che io non volevo farlo, veramente non volevo farlo, solo che le pareti sono sottili. E rimanendo in silenzio, io potevo sentire tutto quello che loro si dicevano. Quindi lei crede che suo marito la tradisca? Si tratta di capire quanto ognuno di noi voglia davvero conoscere la verità. Forse ci sono momenti in cui cerchiamo una soluzione e allora sapere la verità può essere d'aiuto. Altri in cui in realtà la verità non vogliamo conoscerla. Crediamo ad una verità che è la nostra. Non so se mi spiego, dottore. Sì, ma non ha risposto alla mia domanda. Guardi, io non lo so se lui mi tradisce. Guardi, dottore, se lui mi tradisse io credo che non vorrei saperlo. Cioè, se lui mi avesse tradito ma volesse stare con me, no. Gli chiederei di tenerselo per sé, perché credo che io non lo sopporterei. Ho bisogno di credere che lui mi sia fedele, che quando dice che va a dare lezioni di piano, lui stia realmente andando a lezioni di piano. Io ho bisogno di pensare così. Ho bisogno di farlo per poter continuare a vivere una vita serena. Per poter credere in lui, nella nostra storia. Sì, questo è quello che vorrei. Insomma, lei preferisce vivere la sua realtà in modo da soddisfare il suo proprio principio di realtà. Dottore, cosa intende? Non capisco. Vede, tutti noi abbiamo come obiettivo il raggiungimento della felicità. Esistono due principi che portano alla realizzazione di questo obiettivo. E sono il principio di piacere e quello di realtà. Il principio di piacere è teso tutto e solo all'ottenimento della felicità. Nella tensione verso questo ottenimento, però, si scontra inevitabilmente con le regole sociali. Le costrizioni morali che caratterizzano la realtà in cui viviamo. Questo ostacolo concreto però frustra i nostri desideri. Noi quindi, per non veder fallire la nostra speranza di felicità, siamo costretti a scendere a patti con il mondo che ci circonda. Aderendo a quello che è definito principio di realtà, che invece cerca la soddisfazione dei desideri in relazione a ciò che offre la realtà, in sintonia con le regole e i comportamenti accettati. In breve, il principio di realtà agisce in modo da adattare il soddisficimento del desiderio alle situazioni che tendono a limitarlo, escogitando forme di appagamenti diversi. Lei, sostenendo che preferirebbe non sapere nulla di un eventuale tradimento, ammette di preferire la realtà che lei immagina, in modo da soddisfare il suo desiderio di coppia, in modo cioè che il principio di realtà che lei ha stabilito ottenga la felicità che lei desidera. Qui ho smesso di ascoltare e qui i singhiozzi sono ripresi. La seduta è andata avanti, ma io non ho avuto il coraggio di sentirla tutta. Però il fatto che Ettore prima e la paziente dello psicoterapeuta poi avessero tirato fuori questa questione della verità, anche se in modi diversi, mi ha spiazzato. Ero al computer e dovevo lavorare, quindi, come sempre succede, ho approfittato per perdere tempo. E quindi ho scritto la parola verità nella striscia in alto a destra, quella di Google. Se voi inserite la parola verità su Google, escono 30 milioni e 400 mila risultati della ricerca. E la cosa magnifica di Google è che ha una fotografia immediata di quello che cerchi, ma anche di chi sono le persone che cercano quella parola. Quindi, i primi risultati sono i soliti: Wikipedia, qualche definizione presa da dizionari o siti dedicati. Ma subito dopo, e in sequenza uno dopo l'altro, ci sono una canzone di Francesco Povia, quello dei bambini che fanno una canzone che si intitola La Verità, seguita subito dopo da un'intervista al filosofo Emanuele Severino, che risponde alla domanda che cos'è la verità. Ecco, io avrei tanto voluto farvi ascoltare la canzone di Povia, ma Bonini si è opposto. Allora farò un'altra cosa, vi leggerò in sequenza, così come li ho trovati su Google, estratti dal testo di questa canzone di Povia e dall'intervista di Severino, che, vi ricordo, sono entrambi i risultati della ricerca della parola verità. Povia: mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola, vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità. Mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre. E questo, invece, è Emanuele Severino. Si dice che l'uomo cerca la verità. Si pensa che la verità sia altrove, perché se la cerchiamo non è qui con noi. Allora ci mettiamo in cammino per cercarla. Laggiù c'è la verità e noi ci diamo da fare per raggiungerla. Se noi ci mettiamo nella prospettiva dominante in cui la verità è qualche cosa che va ricercato, a cui ci si debba avvicinare, noi la verità non la troveremo mai. Evviva Google! Avanti, dimmelo. Dimmi la verità, Frank. Te lo ricordi? Era la nostra regola di base. E lo sai cosa c'è di bello nella verità? Tutti sanno qual è, per quanto a lungo ne abbiano vissuto senza. Nessuno dimentica la verità, Frank. Si diventa solo più bravi a mentire. Ho chiesto alla mia analista quando guarirò e lei mi ha risposto: quando capirai che venire qua non serve a niente, allora sarai guarito. Maurizio, il mio psichiatra è un mangiatore di unghie professionista con due grandi occhi bovini. Bastano veramente due dettagli e subito abbiamo la faccia davanti. Io non ci posso andare, mi direbbe di separarmi e di andarmene lontano. Allora forse vacci. Mi ha fatto capire che ogni momento inaspettatamente ci può essere nella vita una svolta. Tirando dritto c'è sempre l'uscita dal tunnel. Pensa che io il tunnel pensavo di arredarlo. La mia psicologa è come una mamma. Non giudica, ride, mi tranquillizza. C'è qualcosa che non va, mi sa. Allora, mi ha fatto capire, questo l'ho già letto, il mio terapeuta, una sfinge muta. Ci ho messo 2 anni per capire che se io non riuscivo a parlare, lui non faceva nulla per rompere i miei muri. Mazza, 2 anni di silenzio, 1 ora a settimana non sono pochi. 800240024. Voglio leggervi però questo messaggio che mi è arrivato oggi sul profilo Facebook del programma, che vi ricorda Matteo Caccia, io sono qui. Ho cominciato ipnoterapia da pochi giorni. Oh, mi ha cambiato radicalmente. Un problema cronico di scarsa autostima era precipitato a causa di una brusca rottura con alcuni amici. Non riuscivo più a studiare. Zero, zero scritto in maiuscolo. Adesso faccio una seduta al giorno e mi dà una carica assurda. Non studiavo così da anni. Certo, sono un po' fuori tema in realtà, perché non mi posso permettere nemmeno una seduta da uno psicoterapeuta vero. Sto usando delle app, cioè delle application, per smartphone di un ipnoterapista inglese. Pronto, Serena? Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Hai fatto la tua seduta quotidiana con l'app? Sì, assolutamente, sì, 2 ore fa. Senti, ma me la spieghi? Quindi non è una battuta questa, che esiste un'application... No. Scusami, ma cosa fa? Ti ipnotizza questa application? Ma sì, Dio, non è l'ipnosi quella da show che vediamo in TV. Non è Giù Cascatella, che... abbandonati, dormi, non è quella roba lì. No, okay. Assolutamente no. Non so se hai mai sentito parlare di training autogeno. Sì, ho sentito parlare un sacco di volte, poi sì. Capito che cos'è mai. Il concetto è quello, praticamente si basa sull'autoconvinzione. Più che altro ci sono arrivata in maniera strana. Beh, voglio sperarlo, sinceramente voglio sperare che tu non l'abbia proprio cercata un'application di un ipnotista, ok. Oddio, non pensavo nemmeno esistesse in realtà. Neanche io. In pratica io avevo, per questi problemi insomma, sì, che avevo avuto con i miei amici, sì, mi tormentavo e non riuscivo a dormire. Perciò sono andata sul market dello smartphone a cercare qualche cosa che mi aiutasse a dormire, qualche musica tranquillizzante, qualsiasi cosa. Ok, no? Cioè tu non cerchi delle gocce, cerchi un'application per dormire. Sì. Va bene, ok. E trovi l'ipnotista. No, stiamo sul pezzo, Serena. Trovi l'ipnotista. Certo. Come funziona l'applicazione? Intanto ho provato per dormire e ha funzionato. Ma aspetta, facciamo un passo indietro. Ti prego, dimmi come funziona l'applicazione dell'ipnotista. Ma lui ti parla, intanto è in inglese, da questo è un tormento. Però ti parla e cerca di focalizzare sul tuo corpo. Ma tu c'hai... ma tu adesso sei al cellulare, purtroppo, vero? Sì. Quindi okay. non puoi farcela sentire. No, non posso. Diciamo. Cioè, quindi lui fondamentalmente sono delle tecniche di rilassamento? Inizia con tecniche di rilassamento e per dormire questo funziona. Poi ho trovato... Già che c'eri, hai detto, sì. Vediamo se ce n'è di più. No, perché esce la pubblicità e quindi c'era pubblicità per migliorare e aumentare l'autostima. Siccome questo è il mio problema, ho provato... Ha funzionato, funziona veramente tantissimo. Il concetto è sempre quello del rilassamento, solo che una volta che tu sei profondamente rilassato, comincia a ripeterti e a fare alcuni discorsi motivazionali e funzionano. Ma fammi un esempio di un discorso motivazionale, tipo sei forte? Sei in gamba? No, non sei scema, Serena, ti dice proprio, Serena, non sei scema come pensi, guarda che sei molto più in gamba. Più o meno, usa assolutamente terminologie negative. Beh, ovvio. E poi usa delle visualizzazioni. Per me quello che funziona di più, funziona tantissimo, è questa immagine di uno schermo in cui lui ti fa visualizzare tutti i pensieri negativi come se fosse un computer e poi ti li fa cancellare. A me funziona tantissimo. Serena, senti, io adesso devo mandare la borsa. Se però tu hai ancora 5 minuti, noi ci risentiamo un attimo dopo perché io voglio capirla bene questa storia dell'application dell'ipnotista. Va bene? Stai lì, eh? Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E stai qui. Nella foto di oggi siamo in cielo e c'è veramente poco da dire, perché è un quadro completamente azzurro, al centro c'è una luna, direi quasi a tre quarti, calante. Aspetta, no. Aspetta, luna calante, gobba alle. Vabbè, ma come faccio a sapere se è levante o ponente? È una foto. Vabbè, io direi calante, così a occhio. Le protagoniste della foto sono due, però. Sono la luna calante e un aereo, che è un jet da caccia, credo. Una roba tipo un F-16. Giancarlo Rossetti, 53 anni. Un paese dove passano aerei, a cui non facciamo più caso. Un pomeriggio alla sua fine, con una luna che cresce come i momenti in cui sono felice, per quello che ho. E la macchina che mi permette di fermare un ricordo, perché io sono qui. La luna è crescente, benissimo. Non ne azzeccherò mai una, credo, di queste fotografie. 800240024 349238666. Dunque, si parla di analisti, di psicoterapeuti, di counselor oggi, per sapere chi sono queste figure strane a cui molti di noi raccontano i fatti propri. Però abbiamo intercettato questa ragazza, che a proposito di figure strane, direi, fa proprio al caso nostro, che praticamente si è scaricata un'application per lo smartphone in cui c'è un tizio che fa dell'ipnosi. Pronto, Serena? Sì, ciao. Ciao, scusaci se ti abbiamo tenuta occupata per tutto questo tempo. Intanto ti sei sentita tranquillo. La borsa, che non è mai male. Sì. Mi sai spiegare, perché già subito mi chiedono, ma che application è? Sono già arrivati 4 messaggi. Come si chiama? Total Confidence e non mi ricordo più cosa. No, dai, tu te lo ricordi bene, Serena, dai, non far finta. No. Total Confidence. No, ti giuro. Sì, cioè qualcosa del genere. Che sì. Sta per tipo autostima totale sì, sicurezza. Sì, esattamente. Dimmi l'ultima, esatto. Che hai fatto, dai, Serena. Quando l'hai fatta? Due ore fa. Total Confidence and Success, scusami. Perfetto. Total Confidence and Success. L'ultima che hai fatto, cos'era? Sì, ti stavo raccontando che praticamente dopo una fase di induzione al rilassamento, in cui sostanzialmente tutte le difese mentali e le palle calano, esatto, certo. La visualizzazione di questa seduta prevedeva uno schermo in cui venivano visualizzati tutti i miei pensieri negativi come se fosse un computer, e una volta che io ne facevo un elenco piuttosto lungo, schiacciavo un tasto per cancellarli. Era esattamente come quando fai... Cioè, quindi le selezionavi prima? Le selezionavi? Esattamente. E poi quindi era un cancello unico o un cancello tipo tu, uno per lettera per lettera? No, cancello, non saprei dirti. No, come no, scusa, le visualizzi tu, mica io. Cioè, le selezioni tutti ho cancellato tutto. Okay. È esattamente come un antivirus. Benissimo. E ovviamente poi ci sono tutte le frasi che comunque motivazionali che lui ripete. Come si chiama lui? Te lo ricordi, Serena? Sì, Darren Marx, attenzione, perché Tiziano Bonini forse se l'è già scaricata a tempo zero questa applicazione. C'è grande fermento. Costa 4 euro, mi dicono, di là dal vetro, giusto? Sì, esatto. E questo è il discorso, perché io non disegno affatto gli psicoterapeuti, psicanalisi, neuropsichiatri, però il problema è che costano tantissimo. Cioè, invece con 4 euro ti sei risolto il problema. Faccio una seduta al giorno. Certo. Quante me ne pare. Serena, che cosa fai nella vita? Studi che cosa? Studio medicina. Ah, quindi in teoria saresti pure una razionalista, cioè una che, no, che non dovrebbe credere a queste robe. L'ipnoterapia viene usata anche in psicologia clinica, tant'è che sì, questo lo immagino, Serena, però dall'ipnoterapia a un'application tu capirai che ci passa. Però senti, e tu quindi ti stai laureando in medicina, e quanti anni hai? Sì, 25. Hai uno straccio di fidanzato oppure? Sì. Ce l'ha. E cosa pensa lui dell'application? Guarda, allora, sicuramente ha pensato che sarà molto stravagante a seguire questa cosa. Temo che non sia l'unico. Però piuttosto, esatto, sicuramente, però piuttosto che tormentarlo, effettivamente prima era lui il mio sfogo. Ha ringraziato l'application. Veramente. Serena, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata. E in bocca al lupo per tutto. qualsiasi cosa accada. Ciao, buona giornata. Grazie mille. Ciao, ciao, grazie. 349-238-6666. La mia psicologa è meravigliosa, il suo non dire è il mio dire. E poi, Davide, le donne che ho frequentato sono tutte dell'analista. Dovrei andarci anch'io? Non lo so, forse dovresti farti qualche domanda. Però andiamo da Carlo, a Milano. Pronto, Carlo? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai? Tutto ok, grazie. Parliamo di analisti in carne ed ossa questa volta, giusto? Sì, sì, io ho 59 anni e ho avuto due contatti più recentemente con una persona veramente eccezionale che in caso di piccoli disturbi che avevo, tristezze perché è mancata qualche persona cara o altro, per esempio avevo un matrimonio di un figlio che mi aveva molto agitato, sì. Ho iniziato a capire un po' che dovevo ovviamente avere qualcuno che facesse da specchio. Chiedere una mano, insomma. Sì, chiedere una mano perché da soli non si riesce a capire. E questo però, Carlo, non era uno psichiatra, uno psicologo, era un counselor, vedo sì, scritto. Sì, questa signora è counselor, ma è una molto esperta. Ma che differenza c'è tra un counselor e uno psicologo o psichiatra? No, dunque, lo psicologo ha fatto uno studio di psicologia di 4 anni più altri 4 anni di specializzazione e diversi periodi di training. Lo psicologo può essere o clinico oppure... Okay. Operativo, non so, quelli che fanno anche ricerche. E che tipo era questa signora, Carlo? Tuttora una signora molto bella, di una certa età, che si presenta bene, molto approfondita in vari tipi di studi. Ma le sedute dove erano? In casa, in studio? No, è uno studio. In studio. In via Piacenza. E quanto le davi? Quanto le davi allora? Lei costa sempre 75 euro per una seduta di circa un'ora con regolare ricevuta. Regolare ricevuta. Carlo, grazie mille, in bocca al lupo e buona giornata. A te. Ciao, ciao. Grazie. Andiamo da Simona, sempre a Milano. Pronto, Simona? E sono io, sì, ciao. Sì, sei tu, Simona, a meno che non ce ne siano altre. No, sei l'unica. Senti, raccontami della tua psicanalista, giusto? Sì, guarda, io ho fatto 10 anni di psicoanalisi a 3-2 volte a settimana, classica, sul lettino. Nel frattempo però ho fatto psicologia e sono diventata a mia volta psicoterapeuta. Ah. E questa cosa ha aiutato, ha interferito? Ha aiutato. Me al di là, non sono 4, sono 5 gli anni per lo psicologo più 4 per psicoterapia. Indubbiamente la mia scuola di formazione più incisiva è stata l'analisi personale. Senti, ma tu adesso quindi eserciti? Io esercito da 12 anni, sì. E sei come funziona? Che lavori per un ASL, per un ospedale? Ho lavorato per ospedali e per ASL, no, solo per ospedali, le ASL sono un'altra parrocchia. Ah, ok, sì. Ok. E poi anche in studio? Io ho lo studio privato, adesso poi lavoro per una comunità. Senti, ma Simona, allora ti chiedo una cosa. Ma se tu, quanti pazienti fai in un giorno? Ma dipende dai giorni. Una media, 5? Meno, 4. 4, ok. 12, 16, 3 mezzo, 4. Vabbè, facciamo 4. Sono comunque 4 ore in cui delle persone ti raccontano delle cose, sì. Giusto? Sì. Non sei stremata alla fine di una giornata? No, perché se c'è un training alle spalle è abbastanza solido, non ci si strema. Può essere che ogni tanto qualche paziente, come diciamo noi, lasci qualcosa appiccicato addosso, no? Però questo è un problema che poi si va a vedere con le supervisioni, eccetera. Ok, Simona, scusami, un'ultima domanda e poi è la domanda di rito, poi ti lascio andare che prendo un'altra telefonata. Quanto prendi a seduta? Io prendo 70 euro tutto fatturato. Tutto fatturato. Sì. Grazie Simona, in bocca al lupo e buona giornata. Ciao, ciao. Andiamo a Reggio Emilia da Elena. Pronto Elena? Ciao, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, bene. Adesso molto bene, perché vengo da un periodo infatti di terapia che ha funzionato direi benissimo. Quanto è stato lungo? 2 anni e mezzo circa, ma devo dire che ancora ogni tanto quando ne sento il bisogno, magari anche a distanza di mesi una volta dall'altra, ritorno nel momento in cui sento che... Fai un tagliandino insomma. Esatto, vado a fare un tagliandino. Senti, che tipo è lui o lei? È un lui ed è una persona molto particolare, nel senso che mi ha colpito, come dicevo prima anche nella telefonata precedente, sì, con la tua operatrice, dicevo che ci sono proprio alcuni particolari che mi hanno colpito di lui, perché è una persona molto seria ed indubbiamente da subito l'ho capito, però aveva al dito in entrambi gli anulari un doppio anello, di cui uno una fede e un'altra sembra un'altra fede, però particolare, con degli incisioni sopra, e non ho mai avuto il coraggio di chiedergli che cosa fossero, che cosa rappresentassero, e in più appunto ha una doppia fede, quindi mi sono fatta 200 miliardi di... Ma e non gliel'hai mai chiesto? Non gliel'ho mai chiesto, perché quando entro mi fisso magari a guardarlo, a guardare questi anelli, mi ci faccio io dei pensieri, ma poi non trovo mai né il momento né il coraggio. Senti, ma lui parlava o ti faceva solo domande? No, parlava anche, le prime volte parlavo molto di più io di lui. Beh, poi negli ultimi tempi ha detto alcune frasi, tra cui una che ogni tanto mi torna in testa, che non si preoccupi, mal che vada lei si può sempre drogare, qualcuno la verrà a raccogliere. Ma era simpatico questo dottore. Sì, è molto ha drammatizzato delle mie paure. Immagino. Esagerate. Senti, fattura o black? No, fattura. Correttissimo, devo dire. Quanto allora? Sì, ecco, quello un po' meno, vabbè, 70 euro allora, però... al momento è il più economico, eh? E infatti ho sentito, no, e poi in più tante volte abbiamo pure sforato con l'orario, perché magari... Cioè tipo un'ora e venti... Sì, magari stavo finendo di raccontare una cosa in particolare e mi ha concesso di prolungare... Va bene, Elena, quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Ho 32 anni, non ancora compiuti però, e faccio l'insegnante in una scuola dell'infanzia, ma sono anche faccio svariate cose, sono un'insegnante di ginnastica artistica, massaggio, faccio scuole di massaggio. Brava. Un po' di tutto. Elena, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie, anche a te. Ciao, alla prossima, ciao. Grazie. Sono andato dall'ipnoterapista per riuscire a suonare decentemente la batteria. Che cosa non si fa? Lei mi faceva stare rilassato sulla poltrona e mi parlava come se ridesse. Ciao, questo messaggio è il più delirante che abbia ricevuto negli ultimi tempi. C'è un libro dell'ormai ultra citato in questa trasmissione, David Foster Wallace, che si chiama La scopa del sistema. In questo libro si raccontano alcune sedute di terapeutiche tra questa paziente che si chiama Leonor e il medico che si chiama dottor Curtis J. Questa che state per sentire è una molto particolare e molto divertente. Parziale trascrizione di seduta terapeutica, giovedì 26 agosto 1990. Partecipanti, dottor Curtis J. e Miss Leonor Betzman, anni 24. Dottore, sento odore di breccia, Leonor. Sento nell'aria un certo odore di breccia. Leonor, dottore, saranno le mie ascelle. Credo di avere bisogno di una doccia. Dottore, nascondersi dietro il dito della morbosità non è corretto, Leonor. Se dico che sento odore di breccia, è perché sento odore di breccia. Leonor, lei lo dice sempre che sento odore di breccia. Lo dice praticamente ogni volta che ci vediamo, dottore. Secondo me la mattina lei quando si alza si dà una bella spruzzata di breccia su per il naso. E comunque, che cosa significherebbe breccia? Dottore, me lo dica lei. Leonor, dica la verità. Queste cinture non sono affatto per la sicurezza dei pazienti, vero? Sono per evitare che le saltino alla gola almeno 30 volte al giorno. Dottore, lei si sente arrabbiata. Leonor, no dottore, io mi sento di merda. Dottore, che cosa ci potrebbe essere di interessante? Leonor, interessante per chi? Dottore, chi ci potrebbe essere da interessare? Leonor, e questo cosa diavolo c'entra? Dottore, l'odore di breccia? Sento che si sta smorzando. Leonor, beh, stia a sentire. Dottore, dica. Leonor, mettiamo che nonna mi abbia detto in maniera parecchio convincente che tutto ciò che davvero esiste nella mia vita è limitato a quello che se ne può raccontare. Dottore, cosa diavolo significa? Leonor, lei si sente arrabbiata adesso. Dottore, guardi che qui sotto ho un pulsante espulsivo. Qui, vede, sotto il cassetto c'è un pulsante che se io lo schiaccio, la sparo dritta nel lago. Leonor, secondo me lei è il peggior psicanalista di tutti i tempi. Perché non mi lascia mai sfogare i miei pensieri? Dottore, mi scusi. Leonor, sono qui per questo, no? Non è per questo che le sgancio più o meno 2/3 di tutto quello che guadagno. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. Un segreto: quando la luna fa una D è crescente, quando fa una C è decrescente, cioè calante. Ciao Enzo, grazie a Enzo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?